Investire informati. Allora, abbiamo parlato di zanzare all'inizio, chissà cosa sta infastidendo particolarmente il mercato che torna ad essere molto suscettibile. Stamattina tempesteremo di domande, non di pizzicotti. Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, ben buongiorno, ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, intanto peraltro sto guardando cosa succede questa mattina dopo una partenza che è stata di nuovo pessima per i mercati. Adesso tutto volge al meglio, abbiamo più 0,4% a Milano, a Parigi, a Francoforte, Londra si sta portando sulla parità. E vi racconto anche di un altro dato diffuso proprio in questo momento, riguarda il mercato immobiliare. Gli italiani tornano ad investire sulla casa, riparte il mercato delle abitazioni, sta accelerando la ripresa. Nel 2015 c'è un più 6,5% rispetto all'anno precedente. Le case compravendute sono state 449.000, sono dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate che sono illustrati oggi in occasione della presentazione del rapporto immobiliare residenziale realizzato appunto in collaborazione con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Beh, insomma, per le banche anche questo è un buon argomento, probabilmente un mercato con l'immobiliare sostenuto anche dal fatto che le banche hanno ripreso, anche se non tutte nella stessa maniera, nella stessa misura, ad erogare credito. I mutui, molto questo settore molto condizionato dalle SUR, che quindi dal passaggio di mutuo da una banca ad un'altra, adesso a quanto pare invece torna ad essere vivace anche sul nuovo, quindi sulla nuova erogazione. Detto questo, dottor Gaudio, non parleremo di mutui, oggi parliamo di mercati finanziari, perché il timore fra gli investitori è già da 2-3 puntate che lo stiamo dicendo anche con alcuni suoi colleghi, è che sarà un'estate ballerina e calda per i mercati. Non ci riferiamo solo a quelle che potrebbero essere le condizioni meteorologiche. Subito un primo flash su questo, anche lei è di questo avviso? Beh, certamente alcuni degli appuntamenti che si profilano ormai tra poche settimane, ne ha citato lei una, il Brexit di cui tanto si parla, sono appuntamenti molto rilevanti. Secondo me comincerà nell'estate anche ad emergere qualche considerazione sull'anno politico che ci aspetta, perché ad esempio di presidenziali americani se ne parla relativamente poco sinora, ma è chiaro che piano piano ci avviciniamo a novembre, devo dire, diventerà un tema piuttosto forte, anche perché l'incognita Trump, diciamocelo in termini politiche e economiche, è abbastanza rilevante, quindi si comincia a parlare anche di questo. E poi c'è questa incertezza totale su quello che sono le mosse della Fed. Ecco, la signora Yellen, fantastica persona, però non fa nulla, ecco, per eliminare l'incertezza sulle prossime mosse. Lei sa che i mercati vogliono comunque certezze per procedere bene. Detto tutto questo, io credo ci sarà volatilità, non credo che ci sarà, diciamo, un bear market, o tradotto in altri termini l'orso che divora il mercato, quindi questo non lo credo, un po' di volatilità è possibile. Allora, intanto ai nostri ascoltatori, come sempre, rivolgo l'invito a chiamarci, se volete, all'800240024, se volete un po' raccontarci come state orientando in questo momento le vostre scelte di risparmio e di investimento. Cerchiamo di capire se sono scelte coerenti con l'andamento di mercato, perché le scelte coerenti con le vostre necessità familiari, naturalmente, presupponiamo che le abbiate già fatte. Cerchiamo un po' di capire se state sposando anche le strategie giuste a seconda di come i mercati finanziari si stanno muovendo. Allora, primo test rilevante prossimamente per i mercati, dottor Gaudio, lei ce lo diceva, Brexit o quantomeno referendum in cui il Regno Unito chiama la sua cittadinanza, la sua collettività a questo questo grande argomento: rimaniamo nell'Unione Europea o meno. Peraltro, a proposito di questo, la Banca Centrale Europea avrebbe chiesto alle grosse banche della zona euro, la BCE ne supervisiona 129, di spiegare nel dettaglio come si stiano preparando alla possibile uscita della Gran Bretagna all'Unione Europea, compresa, questo è un pezzo che ha scritto Vito Lops del Sole 24 Ore ieri, compresa la gestione dello stock sui mercati ed eventuali modifiche ai loro modelli di business. Questo significa, dottor Gaudio, lei come interpreta questa richiesta della Banca Centrale Europea, come una circostanza naturale, oppure il fatto che la BCE stia seriamente considerando questa uscita di scena? Ma io credo, quali sono i possibili in breve effetti del Brexit se succedesse? Allora, prima di tutto c'è un effetto sulla Gran Bretagna, evidentemente una forte svalutazione della sterlina che indubbiamente andrebbe a colpire anche la convenienza forza degli altri paesi, perché è chiaro, se una valuta diventa molto debole, le altre valute diventano molto forti e fanno più fatica ad esportare. Quindi, ad esempio, esportare in Gran Bretagna per un'azienda quindi italiana devono riequilibrarsi sarebbe tutti abbastanza i meccanismi complicato. Commerciali, esatto. Eccetera. C'è poi invece un tema, diciamo, di struttura finanziaria. Qualche grossa banca internazionale ha detto che, ad esempio, sposterebbe le proprie attività, che molto spesso sono basate a Londra come centro finanziario, in altri centri finanziari, ritornando ad esempio in Europa continentale. Alcune banche americane hanno detto forse torniamo negli Stati Uniti con i nostri diciamo con i nostri uffici principali che operano sulle borse, che molto spesso appunto sono basate a Londra. È chiaro che tutto questo ha degli effetti organizzativi anche sistemici, no? Quindi molto importante, io trovo che sia assolutamente comprensibile che ci sia questa richiesta da parte della BCE, ripeto. E poi c'è un effetto un pochino più di lungo termine, se me lo, se me lo fa dire. Ecco, sì. Noi sappiamo che l'Unione Europea oggi è una, diciamo, una situazione abbastanza travagliata. Parliamo dei migranti. Gigante d'argilla. Esatto, sì. Parliamo dei migranti, parliamo del tema Grecia che ogni tanto riemerge in superficie. È chiaro che se un paese importante, che è 15-20% del PIL dell'Unione Europea, dovesse dire a me non piace più l'Unione Europea, è chiaro che questo gigante, che già qualche problema ce l'ha, evidentemente accumulerebbe veramente una fatica di problemi da risolvere veramente molto importante. Quindi è certo che sarebbe un ennesimo segnale di sfiducia sulla costruzione europea. Quindi forse in prospettiva è più un problema appunto nel lungo periodo per il direi tipo di precedente sì, che potrebbe sì. rappresentare. Chiaro, qualche scossone sui mercati, è chiaro che se, come le dicevo, la previsione di una forte svalutazione della sterlina, una forte caduta della borsa inglese si avverasse, beh, è difficile che anche gli altri mercati rimangano impassibili, ecco questo. Però è chiaro che in questo senso è più una, diciamo, un effetto sui mercati locali della Gran Bretagna. C'è poi invece un effetto più generale, che è quello che le citavo, sicuramente ad esempio l'emergenza di certi partiti populisti di cui si parla, no, da qualche tempo nell'Unione Europea. Beh, questo dei mercati non si è ancora capito come venga visto, ma sicuramente qualche riflessione la pone. Allora, siete preoccupati voi invece della Brexit? Magari, se volete, intanto vedo già molti ascoltatori che si stanno candidando a raccontarci un po' le proprie scelte fatte in tempi recenti. Li accoglieremo adesso molto volentieri dopo la borsa all'800 24 00 24, ma vi chiedo anche se effettivamente un po' il tema Brexit vi spaventa, vi incuriosisce, lo considerate o è assolutamente lontano dalle vostre preoccupazioni. Lo dico perché banalmente in questi ultimi anni, appunto, questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte, anche fatti accaduti molto lontani da noi poi in realtà ci sono piombati invece in maniera molto molto violenta nelle nostre piccole grandi abitudini finanziarie. Mi riferisco dai mutui subprime del 2008-2009, alla crisi di Lehman Brothers, alla crisi Cina. Cinese recente, certo. Esatto, per cui in realtà sì, sarà un po' considerata un pochino isolata da noi l'Inghilterra, ma in realtà è molto più vicina anche rispetto a quello che pensiamo, certamente più della Cina. Per cui, insomma, come considerate questa situazione? Raccontatecelo. Io intanto vi racconto cosa succede oggi a Piazza Affari. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Oggi è giovedì, abbiamo Investire Informati e naturalmente subito gli ascoltatori hanno raccolto il nostro invito a chiamarci e raccontarci un po' come si stanno muovendo in questo momento, in queste acque agitate dei mercati, soprattutto come stanno muovendo il loro risparmio. Allora, due suggerimenti che ci vengono chiesti da Maurizio da Terni e poi Corrado da Treviso, che salutiamo. Maurizio, benvenuto. Sì, salve, buongiorno a voi. Volevo portare la mia esperienza. Io sono ignorante della materia, quindi mi sono affidato a un promotore, il quale un paio di mesi fa mi ha consigliato un fondo inglese. Ho 70 anni, quindi orizzonte temporale molto corto, massima tranquillità. Mi parlava di un fondo che ha delle oscillazioni massime, volatilità, quindi che poteva andare dall'1,50 in su, a salire, l'1,50 a 2 a scendere, quindi molto tranquillo. Sono passati 2 mesi e il fondo ha un rendimento, ma ha dato un rendimento del 2,09. Uh-huh. Quindi evidentemente ho subito monetizzato questo tipo di guadagno, e questa cosa mi fa riflettere. Quindi due domande che pongo al vostro tecnico. La prima, ho fatto bene a incamerare immediatamente quello che c'è, perché sono uscito e i miei 20.000 euro sono diventati 20.400 e spicciola. Mm-hmm. Prima cosa. Seconda cosa, che devo fare? Devo aspettare che il fondo, così come era prevedibile, riscenda al minimo e poi ricomprare sullo stesso fondo, oppure fare altri tipi di investimenti? Allora, Maurizio, certo. Aspetti, terza domanda. Non ce la facciamo perché siete in tanti. Maurizio, ci scriva, perché magari la terza domanda le risponderemo in questo modo, perché sono tanti ascoltatori pronti ad intervenire. Volevo esaminare anche altri argomenti con Vittorio Gaudio. Allora, ci ha dato chiara con chiarezza l'orizzonte temporale. Non possiamo stabilire se va bene questo investimento per lui, perché dovremmo vedere che cos'è, azioni, obbligazioni, chissà che cosa c'è dentro. Esatto. Allora, importante. In termini complessivi, il caso di Maurizio, che cosa le suggerisce, dottor Gaudio? Voglio dire, se l'orizzonte temporale è corto, devo dire, quindi un prodotto, diciamo, a bassa volatilità, il fatto che abbia guadagnato 2% in poco tempo è sicuramente un fondo che ha fatto molto bene, quindi può anche valer la pena, diciamo, di monetizzare, no? Nel senso, teniamo conto che oggi un BTP a 2 anni ha rendimento praticamente zero, leggermente negativo, quindi 2% in pochissimo tempo. Sono anche un po' incerto, le confesso, Sul tipo di fondo che è stato scelto, perché in effetti un lui, 2% esatto, in poco tempo gli è stato promesso anche il contenimento della volatilità, esatto, del fondo, quindi bisogna vedere sarebbe che cosa interessante messo, strutturato. Anche conoscere la tipologia. Certo che se è un prodotto di liquidità, cosa che francamente non credo, e ha fatto il 2% in poco tempo, fortunato lui, e può anche avere c'era senso. Magari qualche obbligazione secondo abbastanza me dentro. Non era così a corto termine come è stato venduto, ecco, perché diciamo 2% oggi, devo dire, si fa fatica. Certo. Lui poi diceva, insomma, io ho venduto, cosa faccio? Lo ricompro? Maurizio, il tema è questo. Intanto anche il grado di capacità che lei ha di osservare gli andamenti dei prodotti di investimento che sottoscrive, e ricordare l'altra grande regola degli investimenti, che quello che è successo nel passato non è detto che si ripeta. Per cui Maurizio si rifaccia sarebbe un'altra bella bello. Chiacchierata con questo promotore, che quantomeno io suggerirei di conoscere bene il prodotto, ecco, se posso permettermi, perché questa è molto importante. Guardi, non è solo la sua questa raccomandazione, ma una raccomandazione simile l'ha fatta nei giorni scorsi un personaggio abbastanza autorevole per i mercati finanziari. Ci rinfreschiamo la memoria. Il primo tema su cui riflettere è quello della trasparenza. Essa riguarda le informazioni che devono accompagnare un prodotto finanziario affinché il risparmiatore ne possa cogliere fino in fondo il profilo di rischio e di rendimento, valutando con piena consapevolezza se esso sia adeguato alle proprie esigenze. Sotto questo aspetto emerge con forza la necessità degli investitori di avere a disposizione informazioni chiare, sintetiche e immediatamente fruibili. Il prospetto informativo, immaginato dal legislatore comunitario come un contenitore che raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza. Un eccesso di informazioni equivale quasi sempre a una carenza di informazioni. Il prospetto è divenuto uno strumento utile a chi lo redige per prevenire possibili rischi legali, ma rimane un documento troppo lungo e complesso per poter essere letto e pienamente compreso da un risparmiatore. Dottor Gaudio, questo era Giuseppe Vegas, il presidente della Consob, alla relazione annuale di qualche giorno fa a Piazza Affari. Parole sante quelle che dice, anche se da qualcuno sono state interpretate come una sorta di autoassoluzione rispetto ai mancati controlli che Consob ha fatto su situazioni del passato sulle quali adesso non torniamo, ma il tema è questo. Bisogna consegnare all'amico che ci ha chiamato prima documenti trasparenti per capire bene su che cosa si sta investendo, perché non si può sempre dire io non ci capisco. Capisco niente e di conseguenza tutto quello che succede poi va bene, ma può anche non andar bene. Ma direi di sì, le parole del presidente Vegas sono assolutamente condivisibili. Lui insiste su questo tema: informazioni sintetiche, coerenti, scritte in un linguaggio chiaro che si comprenda immediatamente. Anche il carattere, diciamo, del prospetto deve essere di agevole lettura. Quindi, voglio dire, come non si fa a non condividere queste osservazioni? Devo dire, io parlerei anche di prodotti e prodotti, perché per quanto che riguarda il mondo fondi, devo dire, c'è una notevole trasparenza. Io ho qui davanti a me quello che si chiama il KID, cioè quindi sì, le informazioni chiave degli investitori. Molto spesso, ad esempio, il tema costo dei fondi o dei prodotti viene messo in discussione dai risparmiatori. Io devo dire, la chiarezza di questi, se uno ha voglia, naturalmente, pazienza di leggersela, la chiarezza che uno può trovare nel KID, direi esemplare. Ecco, quindi è chiaro che bisogna anche avere un interlocutore, un promotore finanziario che aiuti poi il cliente nella lettura, nell'interpretazione di questi dati. Poi certamente ci sono forse dei prodotti che nel tempo sono stati un pochino più opachi. Molto spesso, come diceva il presidente Vegas, questa voglia di essere molto chiari con i numeri quantitativi, di scrivere tutti gli scenari probabilistici. Ecco, io mi metto ad esempio di fronte a una persona normale che debba interpretare uno scenario probabilistico di rendimento. Adesso, poveraccio, ecco, fa una fatica, è vero, una fatica pazzesca. Però da una parte poi c'è anche la legislazione che vi impone di consegnare tanta carta ai risparmiatori, quindi anche per voi un impegno a cui dovete assolvere, appunto, non sempre di buon grado, però obbligatorio. Quindi è obbligatorio anche per noi, lei pensi, a livello organizzativo, ecco, le strutture ad esempio di gestione del rischio, gli analisti che lavorano a tempo pieno su questi argomenti. Però diciamo, prendiamo il monito del presidente Vegas come un nuovo inizio. Ecco, questo secondo me è un fattore anche da parte loro suggeridei è un fattore molto positivo. Ma se lei dovesse indicarci, visto che si è portato questo documento, il KID, il prospetto appunto esemplificato, che ci racconta un po' come è composto un fondo comune di investimento, qual è la politica di investimento che questo fondo segue, i titoli magari sui quali investi, quali sono i costi che si devono sostenere per investire in questa soluzione, se lei dovesse dare alcune dritte ai nostri ascoltatori, come l'ascoltatore da Terni che ci ha chiamato prima, no? Quando fanno un piccolo grande investimento, firmando anche un mucchio di carta, obblighi MiFID eccetera, quali sono proprio i tre messaggi chiave su cui deve subito focalizzare l'attenzione? Ma io direi prima di tutto l'oggetto dell'investimento. Quindi io ad esempio ho davanti a me un obiettivo di investimento dove si parla chiaramente, è un fondo obbligazionario governativo. Cosa vuol dire? Che investe in titoli di Stato, prima cosa, quindi so in che cosa investe. Secondo, nella seconda paginetta abbiamo i risultati ottenuti nel passato. Questo è molto importante perché ad esempio io ho qui davanti a me sempre 10 anni di storia di questo prodotto. Se io vedo che c'è stato un anno dove c'è stata una perdita, se non altro sono consapevole che può succedere, ecco, che un anno posso perdere, che non sono tutti grafici in ascesa. Sono consapevole che, e quindi da questo posso capire, sono disposto ad avere un prodotto che nel peggiore dei casi, non dico sempre, nel peggiore dei casi può perdere un 1-2%. Naturalmente ci sono la maggioranza degli altri anni in cui ha guadagnato molto bene, ecco, giusto per capirci, però senz'altro è un motore di consapevolezza. So che questo prodotto, per quanto abbia un rischio contenuto eccetera eccetera, ma ci possono essere condizioni particolari sfavorevoli al mercato in cui in quell'anno perdo l'1%. Se un altro lo so, esatto, potrebbe darsi che prima o poi succeda un altro anno di questo tipo, se un altro ne sono consapevole. Terzo, certamente il tema dei costi, perché bisogna essere anche molto trasparenti e Consob insiste molto su questo. C'è proprio una voce che dice spese prelevate dal fondo ogni un anno. Beh, so che in quest'anno ho speso questa percentuale. Quindi farsi spiegare tutto, bene dal consulente anche. Io investo 100, se quest'anno magari guadagno 5, qua i costi che devo sostenere quanto incidono su questo 5. Quindi grande chiarezza. Gli strumenti ci sono, per cui adesso l'altro strumento che bisogna metterci è quello del nostro impegno. Ci fermiamo perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi c'è Corrado da Treviso, poi vorrei fare un commento con Gaudio anche sull'altro grande disturbo dei piccoli risparmiatori, questi titoli di Stato che vanno sempre più in giù in quanto a rendimento. Stamattina aspettiamo altre aste a medio e lungo termine, non abbiamo ancora risultati, abbiamo però quella di ieri con il bot ad un anno che è andato giù di nuovo con un record in negativo, -0,14%, un trend che sembra inarrestabile. Come lo affrontiamo? Tra poco. Cuore e denari. Allora, Allora, io so che non dovrei leggere questi messaggi che possono sembrare anche un pochino, non dico volgari, però sicuramente coloriti, però sono sicura che Vittorio Gaudio si farà una risata al messaggio di Ernesto che dice: allora, la Costituzione americana dei padri fondatori è scrivibile su una pagina formato A4, perché un risparmiatore si deve leggere un romanzo per garantirsi il fondo schiena? Dottor Gaudio, infatti no, adesso andiamo a lavorare anche suggerimenti lanciati dal Sole 24 Ore da molte settimane, che insiste sul fatto di esemplificare al massimo i documenti informativi che vanno dati ai risparmiatori. E poi comunque abbiamo sempre una chance, se non capiamo una cosa possiamo sempre dire di no, dottor Gaudio. Su questo possiamo essere tutti d'accordo senza dover andare a rileggere la Costituzione americana. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Le dico, Gaudio, che poco fa sono stati assegnati 2 miliardi e 250 milioni di euro di BTP a 3 anni, il rendimento è allo 0,04%, per il BTP a 7 anni 2 miliardi e 720 milioni di euro, il rendimento è in risalita allo 0,87%. Come leggiamo l'esito di queste aste? Beh, direi che si conferma un trend che ormai, come lei diceva prima, ci è familiare, quindi siamo in un mondo di tassi monetari, di tassi a breve bassissimi, negativi ormai in tante degli emittenti più importanti a livello mondiale. Pensi che ormai a livello mondiale siamo a circa 6.000 miliardi di bond a rendimento negativo, quindi una percentuale veramente molto importante. Devo dire, non si ravvisa a breve un cambiamento di questa tendenza, quindi dobbiamo abituarci. Cosa vuol dire abituarci? Vuol dire che se campavo solo col titolo di Stato per le cedole, per il rendimento, dobbiamo fare un passaggio diverso, l'abbiamo detto insieme tante volte. È chiaro che se ho esigenze a brevissimo termine, 3 mesi, 6 mesi, un conto, ma se una parte del mio risparmio può essere destinato a 5-7 anni, non vedo perché devo dare i soldi, adesso con tutto il bene che vogliamo al tesoro italiano, però a questi livelli di rendimento. Lasciamo queste operazioni alle tesorerie delle banche, esatto. Noi come piccoli risparmiatori facciamo altre scelte. Le faccio sentire la domanda di Corrado da Treviso, poi devo salutare rapidamente un altro ospite che ci deve raccontare di un bel evento che si svolge nei prossimi giorni. Corrado da Treviso, al volo, grazie. Eccomi qua, buongiorno, grazie che mi avete accettato. Sì. Mi sente? Sì, la sentiamo, deve andare velocissimo con velocissimo, la domanda. Velocissimo, velocissimo. Allora, da qualche settimana ho ereditato una piccola cifra, no? Però vedo che nel conto corrente, quel piccolo deposito che avevo, mi davano 0,8-0,9 di interesse, una roba spaventosa. Allora, una roba spaventosa, ma è già tanto, Corrado, con quello che rendono i titoli di Stato. Allora, volevo solo sapere dove potrei mettere questi soldi, sono 35-40 mila euro. Corrado, il tema è capire quanto tempo ha a disposizione e cosa le servono questi soldi, ammettendo che per Corrado siano quel piccolo gruzzoletto magari a cui attingere in casi di emergenza. Dottor Gaudio, lo faccio io un obiettivo per Corrado. Ma guardi, se ho ben capito, il conto deposito rende allo 0,8 e questo nostro probabilmente ascoltatore probabilmente a un anno, sarà una scadenza, sì, un anno, se questo anno e nostro mezzo, ascoltatore riesce a godere di questo 0,8 è tantissimo, cioè, quindi se ha un obiettivo di liquidità, quindi di tenere una sicurezza, bassissima oscillazione, 0,8 è fantastico, perché ripeto, teniamo conto, lo diceva lei adesso, che un BTP a 7 anni rende lo 0,8, quindi un conto di deposito un anno o a pochi mesi che renda tanto così è fantastico. Fantastico, quindi lo lasci lì. Io dico che la lezione che dobbiamo così cercare un po' di dare ai nostri ascoltatori è contestualizzare il risparmio rispetto a quello che ci capita. Non ce la possono fare. Non ci siamo abituati ancora. Quindi, Corrado, il tema è che secondo me, se lei ha bisogno di questo denaro proprio come piccolo serbatoio per le emergenze, direi che questo 0,80% che le dà questo conto di deposito è già un'ottima cosa, altrimenti deve assumersi un po' più di rischio. Adesso faccio un piccolo giro a Rimini, vado a trovare Mauro Pratelli, direttore e socio fondatore di IT Forum, l'investment trading forum che si svolgerà a Rimini la settimana prossima. Pratelli, buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Rimini, settimana prossima c'è l'evento nazionale indipendente gratuito dedicato al mondo degli investimenti, del trading online, ma non solo, anche del risparmio gestito. Perché mi soffermo su questo? Perché ancora questa manifestazione è percepita come il regno dei trader incalliti, invece Pratelli sono cambiate tante cose in questi anni. Preannuncio già che per due giorni ci saremo anche noi di Radio 24 con in diretta tante trasmissioni, fra cui due giorni con Cuore e Denari. Cosa vuole in pentola per questa edizione? Beh, bolle in pentola, come ha giustamente segnalato, una forte focalizzazione sui temi del risparmio e dell'investimento. È una manifestazione veramente aperta a tutti, ci sono tante persone come il signor Corrado, ad esempio, di poco fa, che vengono lì per incontrare grandi esperti, perché a Rimini c'è proprio il tempo per incontrare le persone, parlare, farsi una cultura. Noi abbiamo sempre molto basato tutto, sono 17 edizioni, sulla crescita personale, no? C'è tanto, ci sono eventi in cui uno viene, fa due giorni, uno full immersion nelle tematiche principali e veramente torna a casa con una consapevolezza superiore che sicuramente prima non aveva. Questo è il motivo per venire a Rimini, principale, certo. Il primo motivo. E poi anche per così seguire i tantissimi eventi che organizzati quest'anno, un grande focus sulle politiche monetarie, ci saranno degli esponenti addirittura della Banca Centrale Americana, se non ho letto male il programma. Sì, esatto, esatto. Abbiamo due esponenti della Fed, uno della Fed di New York e l'altro della Fed di Atlanta, e quindi sarà molto interessante sentire dalla loro viva voce come vedono dalla loro carta o dalla loro città, diciamo, dalla loro nazione, l'Italia. Sappiamo che soprattutto quelli di Atlanta sono piuttosto cattivi, passano, no, per i falchi. Speriamo che con qualche piadina romagnola vediamo di alleggerire un po' la situazione internazionale. Benissimo. Grazie a Mauro Pratelli per essere stato con noi. Lo rincontreremo sicuramente la settimana prossima in occasione appunto dell'IT Forum di Rimini, 19 e 20 maggio, l'evento nazionale dedicato al mondo degli investimenti, del risparmio gestito e del trading online, che è un tema che interessa molto un ascoltatore che ci scrive: io faccio delle demo con i CFD, voi non ne parlate mai, è un tema molto complicato per una nicchia di investitori, ma se insomma vi piace magari più avanti ne parleremo. Grazie anche a Vittorio Gaudio per essere stato con noi. Tanti gli argomenti che anche oggi siamo riusciti a toccare, ci risentiamo nelle prossime settimane. Intanto grazie a tutti, io ritorno domani regolarmente con Nicoletta, intanto vi auguro una buona giornata.